dall'istante che tu m'hai sorriso, tutto il mondo sorride per me. Io t'amo, t'amo, t'amo, immensamente t'amo. Vita mi ha dato solo te, la luce degli occhi sei per me, sei la speranza che è scocciata nel mio cuore. Mi sembra di sognare, mi par troppo bella la realtà ed ho paura di dovermi all'improvviso che sei per me la vita. Per me la